Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Questo è il suono dell'oro. Questo invece il suono dell'argento. Eh sì, perché le medaglie paralimpiche forse non hanno solo un peso diverso, ma anche un suono diverso, perché sono anche pensate per quegli atleti, ad esempio non vedenti, che possono apprezzare attraverso il diverso suono la qualità della medaglia che hanno appena conquistato alle Paralimpiadi. Ebbene, oggi a Olimpia abbiamo la possibilità di sentire questo splendido rumore, questo splendido suono, il suono di un podio olimpico, grazie alle medaglie che ci ha portato il nostro atleta, il nostro ospite, il nostro campione paralimpico Federico Morlacchi. Benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie mille, un buongiorno a tutti. Allora, caro Federico, abbiamo sentito il suono dell'oro e dell'argento, ma hai voglia a che collezione di medaglie paralimpiche che hai tu nel nuoto? Perché tra Londra 2012 e Rio 2016 quante ne hai vinte e di che suono? 7, di cui 3 bronzi, 3 argenti e finalmente quell'oro, ecco, che è il sogno questo, di ogni bambino, credo. Questo è l'argento e questo invece è il suono che penso che... è quello che ti è piaciuto di più, è, no? Il suono che vale 4 anni, una vita magari anche di sacrifici, di lavoro. Beh, lavoro che ce n'è tanto, ecco. Ma tra l'altro ti chiedo subito, come nasce per te la passione per il nuoto? Allora, diciamo che è nata tutto più per uno scopo di salute. All'età di 3 anni più o meno, io con gli inizi della deambulazione, quindi con una protesi, avevo degli piccoli scompensi e mi hanno consigliato di fare nuoto, perché stavo senza protesi. Perché tu sei affetto da una... da un'ipoplasia congenita del femore sinistro. E quindi questo... poche parole, è un femore più corto, senza star lì a sofisticare. A perderci in termini troppo scientifici. E quindi mi hanno buttato in acqua per stare un po' meglio e da lì non ho più smesso. Beh, direi che insomma bel percorso, perché da quella necessità fisica è nata una vera e propria passione, perché poi quello è diventato il carburante in questo motore, no? Sì, se non c'è passione non si arriva a dei livelli alti, perché ti porta a dei livelli di sopportazione che sono incredibili, quindi c'è una sofferenza fisica, mentale, che se non hai voglia di fare fatica non resisti. Senti, raccontaci un po' la tua giornata tipo, perché la passione deve alimentare una quotidianità fatta, immagino, di allenamenti e anche qualcosina d'altro. Allora, è una giornata molto particolare, perché sveglia intorno alle 6:30, allenamento già non è male, alla piscina di Brugherio, 7:30, 9:30, con la palestra 10:11, torni a casa per mangiare, fai il sonnellino pomeridiano che è una manna dal cielo per gli sportivi, e poi 5:07 in piscina a Lodi. Quindi insomma alla fine quanti chilometri sono al giorno? Super giù. In macchina o in acqua? Perché tutte e due, bravo, bravo, specifichiamo. Beh, in macchina sono troppi. In acqua sono intorno ai 10-11, che non è un volume eccessivo, però ci siamo concentrati tanto sulla qualità. Quindi passi gara, stare lì, fare capire al tuo cervello che devi andare forte. Quindi molto sul ritmo più che sul volume. Sì, ed è molto più intenso, più difficile. Se non sbaglio hai vinto medaglie, vado a memoria, in tutti gli stili, ma qual è il tuo preferito, quello in cui ti senti più a tuo agio? Beh, io nasco delfinista, quindi è il mio stile preferito, ce l'ho anche tatuato sulla pelle. Questo è uno dei motivi, quindi... Poi però per il resto le medaglie arrivano anche negli altri, no? Sì, sì, sì. La cosa che più mi rende orgoglioso e che mi fa più ridere è la medaglia d'argento nel centorana. Io l'ho definita come essere una talpa di acchiappa la talpa, fai su e giù, ma non ti muovi mai. E invece da 3 anni, non so perché, ma dal nulla è uscita questa rana molto più efficace. E lì ci abbiamo creduto, ci abbiamo lavorato ed è arrivata questa medaglia, direi, inaspettata e che mi fa ridere. Cioè. Quindi insomma sei riuscito anche a spostarti un po' in avanti in acqua, ecco, non era solo questo movimento dalla talpa. Sì, ma poi conta che la rana è uno stile per chi ha più una disabilità all'arto superiore, perché noi siamo in classi ma c'è una disparità, quindi la rana è più per chi ha due gambe, banalmente. Certo. Ed essere lì a giocartela avendo solo una gamba è un valore che pesa tanto. Hai detto ci abbiamo scommesso, ci abbiamo lavorato, ci lavoriamo. Ecco, il tuo gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro, allora, abbiamo fatto una cosa molto divertente che si chiama acquario, che tiene tutta l'essenza del lavoro. Quindi c'è l'acqua e c'è Rio. E ci siamo messi lì. Abbiamo creato questo gruppo per far sì che tutti gli sportivi paralimpici, nuotatori, che sono venuti a Milano per studio, per lavoro, quindi anche gente da Parma, da Cagliari, abbiamo creato questo gruppo per far sì che l'identità rimanesse la loro, quindi non abbiamo chiesto un prestito o un tesseramento. E la Pola Varese, che è la mia società, ha messo a disposizione i tecnici, il preparatore, la psicologa. Abbiamo lavorato insieme al comune di Milano perché ci ha offerto l'acqua, che è una cosa che fa comodo, insomma, e fa anche un piacere, perché non è scontata. Certo. E ti dico solo questo dato: di 13 medaglie del nuoto, 7 vengono da acquario, quindi direi che questi pesciolini crescono alla grande. Tra l'altro, se non sbaglio, e correggimi nel caso, la vostra storia la vostra rincorsa verso Rio è stata ora documentata anche appunto da un racconto documentario molto prezioso, molto bello, vero? Sì, uscirà credo a breve. Riccardo Barlam, che è il papà di un nostro atleta, è anche un nostro carissimo collega. Esatto, e si è adoperato per far sì che la nostra storia uscisse in un breve documentario. Credo che sia uscito bene, spero, perché... Se no tiriamo le orecchie a Riccardo, ma davvero abbiamo pochi dubbi. Il titolo, tra l'altro, molto... I pesci combattenti. Quindi, insomma, siete veramente dei piragna, non tanto per gli effetti del morso, anche perché poi, però, queste medaglie siete bravi ad agguantarle, ad addentarle, ma anche per il vostro spirito, Sì, c'è dietro un lavoro che non ha nulla da invidiare a nessuno, soprattutto nell'anno olimpico ci siamo messi sotto, ci siamo ammazzati di doppi, mattina, pomeriggio, palestra, abbiamo messo tutta l'energia disponibile. E ora siamo in vacanza, infatti, perché dobbiamo riprenderci. ci voleva. Come ci prendiamo allora adesso, proprio anche radiofonicamente parlando, una brevissima pausa, poi torniamo ancora insieme qui a Olimpia con Federico Morlacchi, plurimedagliato paralimpico del nostro nuoto. Olimpia, miti e verità dello sport. Ancora Olimpia, qui insieme con Federico Morlacchi e con le sue medaglie paralimpiche. Ve le faccio ancora sentire, questo è il suono dell'argento paralimpico e questo invece, vediamo, non facciamo scivolare, il suono dell'oro. Federico, andiamo a parlare di quello che è l'eredità di Rio 2016, della Rio 2016 paralimpica. Da osservatore dello sport ho notato anche un cambiamento di linguaggio rispetto allo sport paralimpico. Per paradosso, anche nel raccontare le tante storie di voi protagonisti paralimpici, anche noi media abbiamo più guardato il risultato sportivo, come se noi stessi fossimo un po' cresciuti nel racconto dell'agonismo paralimpico, no? Togliendo un po' di pietismo, togliendo un po' di quella melassa che inevitabilmente per tanti anni ha accompagnato le vostre imprese. Sì, diciamo che si è aggiunto un importante tassello a Londra 2012, perché se Londra 2012 è stata una piacevole scoperta, Rio credo che sia stata una stupenda conferma. C'è stato un seguito mediatico incredibile e noi ce ne siamo accorti proprio tanto dai messaggi che ci arrivavano dall'Italia, ma sono stati tantissimi. Per fortuna diciamo che ci si sta accorgendo che è un mondo sportivo e non è un mondo di disabili, siamo atleti a tutti gli effetti, come la mia giornata che ho raccontato prima è uguale a quella di, che ne so io, una Federica Pellegrini. Tra l'altro, vi capita anche di fare dei lavori in comuni con la nazionale, di nuoto? Che scambio c'è con i campioni, con i vostri colleghi? Beh, diciamo che non ci incontriamo quasi mai se non alle gare, a delle gare. Amiamo tenere per noi i nostri segreti, dai, C'è ammettiamolo. il rischio che vi rubino qualcosa, perché poi in termini di volontà, tante volte vedervi in acqua, vedervi lottare per il podio è sicuramente anche una scossa, no? Per magari quell'atleta che vive con sufficienza anche il rapporto col proprio talento. Sì, diciamo che la cosa più importante che si può dire è come cavolo fa una persona in carrozzina a andare così forte, cioè te ne accorgi proprio visivamente, anche solo perché hanno delle difficoltà oggettive, non potendo controllare le gambe, quelle affondano. E fare un gesto tecnico che può essere complicato come il delfino o la rana è un... cioè, anche io stesso non riesco, cioè ci ho anche provato perché sono una persona abbastanza curiosa, ma io proprio non ci riesco. Eh sì, è vero, davvero a vedere lo sguardo di Federico si vede la voglia di imparare, di stupirsi, di sfidarsi, no? Di superarsi, una voglia bella e sana. Ti chiedo ancora, Rio 2016 dal punto di vista paralimpico, che Paralimpiade è stata? Noi siamo usciti da un'Olimpiade, magari dal volto umano, ma sicuramente molto imperfetta per tanti aspetti. Per altri, invece, come l'avete vissuta voi atleti a livello paralimpico, organizzativo? Allora, diciamo che all'inizio c'è stato un po' di timore perché sembrava che i soldi fossero finiti, che i nostri carissimi cugini olimpici se ne erano presi un po' di più rispetto al pattuito. Poi c'era la paura per il virus Zika, che comunque... Però devo dire che io sono rimasto allibito, era tutto perfetto, non ai livelli di Londra, perché ovviamente i londinesi sono molto più organizzati, però quasi. E in più c'è da notare un calore umano che era 100 volte superiore a Londra. Cioè, c'era proprio il calore del pubblico che... proprio la saudade Quindi insomma brasiliana. ci hanno messo il cuore brasileiro che ha scaldato l'atmosfera di questa Paralimpiade. Hai visto Bebe Vio che addirittura è stata ospitata col Premier alla Casa Bianca, ha scattato un selfie con Obama. Direi che al di là della storia del personaggio singolo è un ulteriore riconoscimento, apprezzamento per tutto il mondo paralimpico o in generale per il mondo dello sport italiano, perché Bebe è andata lì come ambasciatore, come ambasciatrice di tutto il nostro sport. Certo, diciamo che si sta iniziando a capire davvero che il mondo paralimpico, cioè, quest'anno abbiamo dato 11 medaglie agli olimpici, che c'è sempre questa simpatica sfida fra il mondo olimpico e il mondo paralimpico. E come il nostro presidente dice, c'è stata la 40ª medaglia, che sono le migliaia di mail che gli sono arrivati di gente disabile che vuole iniziare a fare sport, che è la medaglia credo più preziosa, quella di platino. Eh sì, quella è la medaglia di platino, perché se c'è forse una diversità, ma anche una linea di convergenza, no? Tra i due mondi, ma soprattutto il messaggio che arriva dal mondo dello sport e soprattutto dal mondo paralimpico è aprite le vostre case, uscite da quelle stanze, da quelle famiglie, trovate nello sport un percorso di condivisione, di dialogo con se stessi e con gli altri, di sfida, perché no, di vittoria e di sconfitta, ma anche di normalità. Beh, diciamo che lo sport nasce innanzitutto per stare bene. Quindi, prima di tutto, fatelo per stare bene voi stessi, per avere un rapporto, per iniziare a conoscere anche cose nuove, perché la curiosità ti tiene vivo. Fai tutti gli sport che vuoi, conosci tanta gente, ti diverti, di più non ce n'è, credo. È vero, di più non ce n'è, penso che potrebbe diventare un hashtag per una campagna promozionale. Noi cediamo volentieri i diritti, perché questo slogan di Federico Morlacchi è davvero efficace. Ricordo anche con emozione quella che era stata l'esperienza paralimpica di Torino 2006, no? Perché laddove, là si parlava di sport invernali, ma colpì molto. Ecco, direi che quell'esperienza, insieme a questi successi, è arrivata ora a maturazione, e credo di dire una banalità, ma non posso non dirla, è un peccato non vedere le Paralimpiadi di Roma 2024, mai avessimo vinto quella corsa olimpica, però, Federico. Beh, allora, io innanzitutto non mi ritengo in grado di dire no, è un'opportunità sprecata. Purtroppo, per fortuna, io non lo so, umanamente non ti posso dire hanno fatto male, perché se la sindaca Raggi ha in mano i conti, credo che lei sappia quello che si può fare, quello che non si può fare. Poi, da sportivo, l'Olimpiade in casa è il sogno, ancora più sogno, però... Ah sì, infatti noi del sogno parliamo, insomma, perché comunque anche del fatto di potervi vedere su una platea così importante in azione dal vivo. Sì, diciamo che potrebbe dare quella scossa in più, che in quella spintarella finale che ci manca. Beh, insomma, speriamo pure che si creino altre opportunità e anche ad altri livelli, no? Perché poi quello che conta è proprio lo sport di base, gli impegni sono stati presi anche a quel livello, quindi l'importante è che si esca da casa e anche a livello paralimpico si scelga lo sport come linguaggio. Senti, il tempo ci chiama a tirare le fila di questa bella chiacchierata. Federico, obiettivo prossimo, però, al di là di Roma 2024, delle Paralimpiadi passate, è già Tokyo 2020? Beh, i cinque cerchi nella mia testa ci sono già i prossimi, però sono ancora lontani. Quindi passiamo per il Messico, mondiale dell'anno prossimo, e per ora ci concentriamo su quello, con un occhiettino puntato verso i cinque cerchi. Come ti aspetti che cambierà lo sport paralimpico in questi prossimi 4 anni? Beh, io sono fiducioso del mio presidente, che Pancalli, Luca Pancalli. Luca, no? Pancalli, che io credo che sia un uomo di come ne nascono una volta ogni 3.000 anni. Come fu Alessandro Magno, ora c'è Luca Pancalli. Beh, allora, deleghiamo a lui, ma anche, insomma, alle piccole e grandi sfide che vinciamo ogni giorno, no? Lo sviluppo della nostra cultura sportiva, che poi è olimpica e paralimpica insieme. Intanto, in bocca al lupo a Federico Morlacchi, e grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a te, grazie a voi anche per avermi seguito. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.